Siamo in Piazza Maggiore per il terzo anno consecutivo per lo sciopero femminista globale. Oggi in Italia oltre 40 città sciopereranno con varie iniziative. Lo sciopero globale appunto da 3 anni rivendica la giornata dell'8 marzo come una giornata di lotta, lotta femminista, lotta contro la violenza maschile contro le donne, contro la violenza di genere, contro la violenza razzista, la violenza dei confini. Non una di meno ha fatto un lavoro per leggere la violenza in modo strutturale. Oggi siamo ancora in piazza contro, come dire, le politiche di questo governo, ma non solo contro questo governo. Chiaramente siamo mobilitate contro il DDL Pillon, contro il decreto sicurezza, ma anche contro il finto reddito di cittadinanza di Di Maio. Noi vogliamo un reddito di autodeterminazione, perché le nostre vite sono sempre messe a valore ed è per questo che noi oggi scioperiamo. Certo, ma è anche bello che questa giornata sia anche qualcosa di rappresentativo, no, per quello che è un mondo diverso, che è ancora possibile. Il Medioevo lo teniamo dietro, no? Assolutamente, assolutamente. Le donne, le lesbiche, le trans, le proce oggi si sollevano in tutto il mondo, perché appunto contro questa, diciamo, questo rincarare la dose da parte del patriarcato, del neoliberismo, che sì, cioè, non possiamo parlare di un vero e proprio medioevo, ma sicuramente di un inasprimento delle politiche contro l'autodeterminazione delle donne, l'autodeterminazione delle persone LGBT e sicuramente appunto della possibilità dei migranti, delle persone razzializzate di muoversi, di migrare. Contro tutto questo, appunto, ripeto, scioperiamo in tutto il mondo, dal grido dell'Argentina, ni una menos, sino do trasparamo, separa il mondo. Noi ci fermiamo, vogliamo appunto immaginare una società come piace a noi, e in realtà la stiamo già vivendo, già costruendo, e oggi la piazza è un segnale molto forte. Abbiamo uno spazio bimbi in cui cerchiamo di collettivizzare il lavoro di cura, faremo un pranzo sociale a Verdi alle 13:30, sempre per appunto collettivizzare il lavoro di cura, far vedere che il lavoro domestico è un vero e proprio lavoro, da cui anche da quello oggi vogliamo scioperare. Abbiamo delle lezioni in piazza perché vogliamo un sapere privo di stereotipi di genere, un sapere che appunto sia libero dal razzismo. Vogliamo una scuola dove sia possibile fare un'educazione alla socialità, all'affettività. Quindi la società, diciamo che noi sappiamo bene come ce la immaginiamo, come la vogliamo costruire, e lo stiamo facendo.